Autunno sugli alberi le foglie, Giuseppe che guardava quelle querce o le spoglie, le veglie, le bocche digrignate volte al plenilunio, le soglie tra il dolore e l'euforia di avere un altro luglio davanti, soltanto ostacoli, rimpianti, sai quanti si sono fermati fischiando all'uscio a rimirare le loro vite spente senza più alcuna voglia di cambiare, ma voglio oltrepassare e sedendo e mirando interminati spazi sorpasso questa siepe, voglio solo andare avanti e un mondo di leopardi si sbranano come dannati nei gironi bassi, sei fatti non foste a viver come bruti, ma più mi guardo intorno e sai apprendo che siamo perduti. Dante, sono al tuo fianco nella selva oscura, non smetto di sognare una radura, vita meno dura. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, la pioggia nel pineto, più passeggio più ne prendo parte, ma il destino cambia le mie carte, non c'è una mano peggiore, non so come giocarle e mi trasformo in un gabbiano e volo piano, ma volo lontano dal porto, gente mi saluta con la mano, punto all'Alaska e a volte sai si casca, ma il mio destino è vivere balenando in burrasca. Il rap è poesia in movimento, il rap per me spinge quello che sento, ciò che batte forte nel petto, un'onda che spinge dal cuore da dentro. Il rap è poesia in movimento, il rap per me spinge quello che sento, ciò che batte forte nel petto, un'onda che spinge dal cuore da dentro. Verso un'onda d'inchiostro amaro, verso quattro, verso quale strada ci dirigiamo stregato, diverso il tratto attraverso lo specchio, ma di Dorian il fatto è come il dado tratto. Ho bruciato il ritratto, cuore di tenebra, il male si è tagliato, si moltiplica, testa dell'idra. Qui ogni rima è una sfida, una firma, una via per fuggire da sto mondo di follia. È l'attimo fuggente quello che hai in te, tu hai Mark Blake, Byron S, Baudelaire, Calvino, Verga, Voltaire, ballate di canta storia di vecchie epoche, yeah. Poche le tracce di vero intorno a me, con le forze rimaste cerco l'isla che non è. Se stai con me, solo creme della creme, gran finesse come Slav Chico, zero stress. Il rap è poesia in movimento, il rap per me spinge quello che sento, ciò che batte forte nel petto, un'onda che spinge dal cuore da dentro. Il rap è poesia in movimento, il rap per me spinge quello che sento, ciò che batte forte nel petto, un'onda che spinge dal cuore da dentro. La poesia si muove nelle gambe di quella signora che non sa che giorno è, che ora tutti aspettano che muoia per la sua eredità. L'ultimo marito è l'ultimo che l'amava non per la proprietà. Anime detriti nascosti dentro ai libri, ma la poesia non la scrivi, la vivi. Attimi radioattivi trasformano le persone in mostri, prestati al mondo, pentole sotto pressione, pronte a esplodere, meteoriti in cerca di collisione o a emergere da onde in progressione. Ho sempre letto poco, soprattutto a scuola, odio l'accademia da quando ne ho memoria. Ho studiato storia, la forma e la sua gloria, ma la storia ci ignora e si ripropone ancora, come certi poeti automi, virtuosi, che gli dedicano vie ma a me sembrano noiosi. Il rap è poesia e movimento, il rapper per me spinge quello che sento, ciò che batte forte nel petto, un'onda che spinge dal cuore da dentro. Il rap è poesia in movimento, il rap per me spinge quello che sento, ciò che batte forte nel petto, un'onda che spinge dal cuore da dentro. Dal cuore da dentro, dal cuore da dentro, dal cuore da dentro, dal cuore da dentro.